Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. È nel nome del progresso il dibattito sia aperto. Parleranno tutti quanti, tutti medici e sapienti, tutti intorno a pezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Allora, eccoci qua, buongiorno, le 9:57 minuti primi, siamo all'ottava puntata con Agora in onda. Quest'oggi passo direttamente la parola all'avvocato Marco Mampieri, perché ha un ospite particolare quest'oggi, perché parleremo della sanità della nostra regione con l'onorevole Rodolfo Lena. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio Onda Libera. Buongiorno, mi associo ai saluti e al buongiorno a tutti gli radioascoltatori. Da oggi anche su Facebook saremo in diretta, quindi un saluto a chi ci guarderà attraverso il social network. Un saluto e un ringraziamento per la presenza all'onorevole Rodolfo Lena, che oggi ci parlerà della situazione della sanità nel Lazio, e su questo faremo un po' il punto insieme a lui su quello che sono stati gli anni in cui lui si è occupato direttamente di sanità e soprattutto di che cosa, qual è la situazione. Fotograferemo qual è la situazione della Regione Lazio su un tema molto importante. Partirei proprio dall'articolo 32 della nostra Carta Costituzionale, che recita appunto che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. E proprio perché la salute, come dispone la nostra Carta Costituzionale, è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, chiediamo a Rodolfo Lena che cos'è e qual è la situazione della Regione Lazio oggi rispetto a quelle che erano le condizioni nel 2013, quando l'attuale amministrazione regionale è entrata in carica. Ma la situazione è totalmente cambiata rispetto a quella che noi abbiamo ereditato nel 2013. Se soltanto si immagina che nel 2013 noi abbiamo trovato una regione che tecnicamente, se fosse stata un'azienda privata, era chiusa per fallimento. Questo non ce lo diceva né la presidente Polverini né il presidente Zingaretti, ma il Ministero dell'Economia e Finanze, che ci dava un debito enorme dal punto di vista economico. Gran parte di questo debito era ovviamente legato al sistema sanitario. Nel 2007 infatti la Regione Lazio è entrata in commissariamento e in piano di rientro, cioè vuol dire che non c'era più una gestione diretta da parte della Regione Lazio, ma c'era un accompagnamento verso dei processi che si dovevano sviluppare insieme ai ministeri affiancanti della salute e dell'economia. È chiaro che noi siamo partiti con un disavanzo di meno 2 miliardi di euro l'anno, quando siamo arrivati noi erano scesi a meno 700 milioni di euro. C'era però un problema che non era soltanto il problema economico, che è chiaramente uno dei grandi macigni che pesava sulla regione, ma come giustamente hai detto tu, noi dovevamo garantire il diritto alla salute, il diritto alla cura, un sistema sanitario che fosse per tutti. E in questa regione non c'era, ripeto, solo il problema economico, ma c'era anche e soprattutto per alcuni versi una mancanza di organizzazione del sistema sanitario regionale. Mancava una rete territoriale, mancava una rete ospedaliera, le ASL non avevano gli atti aziendali, cioè c'era un'assoluta mancanza di regole che ha fatto sì che ha trascinato la Regione Lazio, rispetto al problema economico e al problema organizzativo, al commissariamento. Questo fatto è stato determinato e certificato anche da, diciamo così, una cartina di tornasole, che sono i famosi LEA, i livelli essenziali di assistenza, che è praticamente il parametro di giudizio che viene dato non dalla regione ma dal ministero, per capire se quello che noi eroghiamo è al limite della sufficienza. Nel 2013 noi avevamo un segno negativo davanti, non arrivavamo ai famosi 160 punti, che era il minimo che si doveva avere. Oggi parliamo che la Regione Lazio non soltanto ha cambiato il segno da negativo a positivo, ma siamo arrivati più di 170, quindi vuol dire che abbiamo raggiunto più della sufficienza rispetto a quello che noi eroghiamo nel sistema sanitario. È chiaro che per arrivare a questo abbiamo dovuto lavorare molto, abbiamo stressato il sistema, perché poi il commissariamento, che in sé potrebbe dire poco agli ascoltatori, di fatto provoca una cosa che è assolutamente drammatica, cioè il blocco del turnover. Se voi soltanto immaginate che nel 2013, appena siamo stati nominati, sono usciti dal sistema sanitario più di 680 persone e ne abbiamo assunte tra i 63 e i 65 unità. È chiaro che in questa maniera diventa difficile programmare, diventa difficile ricostruire. Quando manca il personale, è chiaro che qualsiasi idea, la migliore che si possa avere, il decreto più efficace che il presidente Zingaretti può fare, trova difficoltà ad avere un'attuazione sul territorio, perché non c'è chi materialmente riesce a fare questo. Così come noi abbiamo trovato il problema dei concorsi bloccati. Molti ragazzi che si sono laureati in questa regione non hanno potuto partecipare a bandi di concorsi perché la regione non ha bandito i concorsi. Li stiamo facendo noi oggi, ma li stiamo facendo oggi perché in questi 4 anni e mezzo, 5 anni quasi, abbiamo lavorato per rimettere in linea tutto, per recuperare le spese, per cercare di recuperare soldi che erano anche bloccati dai ministeri, che non ci davano perché Lazio non raggiungeva la sufficienza su alcune cose. Oggi quei soldi, ad esempio per la ristrutturazione di tutti gli ospedali, oltre 360 milioni di euro, ce l'hanno dati perché abbiamo raggiunto dei livelli importanti. Oggi fortunatamente parliamo di nuovi bandi di concorso, oggi fortunatamente, ma sono dati, queste sono cose concrete, non che faremo, che abbiamo già fatto e stiamo facendo. I primi 60 sono stati assunti, le prime stabilizzazioni. Ecco, scusami Rodolfo, allora per far capire anche agli ascoltatori, sì, abbiamo intitolato questa puntata Sanità, la sanità nel Lazio, criticità e prospettive. Siamo partiti analizzando quelle che sono le criticità, una parte delle criticità in cui la Regione Lazio si è trovata al momento del vostro insediamento nel 2013, ma ancora ha sicuramente delle difficoltà da superare, e su queste ovviamente ci darai conto anche rispetto a quello che è il tema importante, che è quello delle prospettive della sanità, certo, nella Regione Lazio. Cioè dobbiamo far capire ai nostri ascoltatori quali saranno le possibilità che la Regione, una volta speriamo usciti dal cosiddetto piano di rientro e quindi dal commissariamento, potrà avere una Regione che potrà andare, speriamo, insomma, ve le spiegate, verso una sanità non più commissariata, ma una sanità gestita dalla politica. Diciamo però che sono due aspetti che vanno, si accompagnano, ma sono differenti, sia il piano di rientro che il commissariamento. Noi potremmo anche uscire dal piano di rientro e essere ancora commissariati, ma la cosa importante è uscire dal piano di rientro, perché il piano di rientro di fatto non ci dà la possibilità di investire su innovazioni particolari, su progetti particolari che noi vogliamo mettere in campo, perché ad oggi noi siamo costretti a investire solo su quello che è i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che noi dobbiamo garantire per legge. Così come il piano di rientro ci blocca le assunzioni, cioè noi oggi stiamo assumendo rispetto a una percentuale di quelli che vanno via che ci dà il Ministero. Prima era il 5, poi è diventato il 10, oggi parliamo del 50%, che sono numeri importanti, ma per noi non sono ancora sufficienti per garantire quel turnover. La media dei nostri infermieri, dei nostri medici, del personale, è una media di età molto alta, che va tra i 55 e i 57 anni. Cioè, se noi immaginiamo soltanto che Lazio ha 4 policlinici universitari, forma il personale sanitario in generale del Lazio e del Centro Italia, e poi non può fare i concorsi perché i bandi sono bloccati, e so che questi ragazzi sono costretti all'andare a lavorare fuori regione o addirittura all'estero, per noi questa è una cosa che non si può più tollerare. O magari aggiungo anche in cooperativa, forse che è la soluzione. O tra l'altro anche in altre situazioni, perché purtroppo il proliferare di queste cooperative, di queste situazioni, è nato perché pur di garantire i servizi, non potendo assumere, è stato dato in gestione il servizio con il personale, pur di garantirlo. Noi vogliamo cambiare, e per fare questo, ripeto, noi in questi 5 anni quasi, ormai siamo arrivati alla scadenza, il tema vero è che noi con le due mani, con una mano abbiamo lavorato per costruire, l'altra lavoravamo per tappare le falle. i vari e centinaia di contenziosi che avevamo con strutture private accreditate, con un sistema che non funzionava. I pagamenti prima si facevano a 3 anni, 2 anni, venivano pagate le strutture che erogavano servizi o i fornitori. Oggi la Regione Lazio si sta incanalando verso un sistema europeo, paga 60-90 giorni, cioè stiamo entrando nella normalità. Allora, scusate un attimo, visto che parliamo di soldi e di pagamenti, c'è la pubblicità, ci fermiamo un attimo, altrimenti qua non ci pagano e ci mandano all'estero anche a noi. Oggi abbiamo questa musica da camera che ci accompagna ora in onda per parlare appunto dei problemi e non anche delle cose fatte positivamente nella Regione Lazio riguardo la sanità. E io passo nuovamente la parola all'avvocato che abbiamo dall'altra parte, che questa mattina si è improvvisato anche fonico, tecnico. Prego, vai Marco. Risolviamo i problemi tecnici. Oggi parliamo, come hai detto tu, di sanità nel Lazio, ne parliamo con Rodolfo Lena che ha accettato l'invito ad essere qui con noi in trasmissione. Ci siamo focalizzati nella prima parte della trasmissione ad illustrare quelle che sono state le criticità, quindi chiedo a Rodolfo lui ha anticipato che la sanità nel Lazio nel 2013, quando è stato l'insediamento della giunta attualmente in essere nella Regione Lazio, si è trovata con una situazione critica da un punto di vista finanziario. Ti chiedo allora, Rodolfo, hai accennato tu appunto che c'è stata questa difficoltà economica, però ti volevo chiedere se la difficoltà, l'hai già in parte anche esposto, era semplicemente legata alla criticità finanziaria ma anche a una rete inefficiente. Ecco, su questo, proprio per chiederti che cosa poi concretamente è stato fatto e quali sono le misure. Allora, innanzitutto voglio dire, io non voglio dire o dare colpe a qualcuno. No, senza dare colpe. Perché non era, la mia intenzione non è, non vuole essere, non sarà questa. Però è normale, è chiaro che i cittadini, gli ascoltatori in questo caso, debbono avere un quadro chiaro di quella che era la situazione. Perché io oggi mi rendo conto che dopo il lavoro importante che è stato fatto, perché è stato fatto un lavoro importantissimo, e come tu hai detto non c'era solo il problema economico ma c'era anche il problema della mancanza di organizzazione, oggi i cittadini ancora non beneficiano al 100% di questa riorganizzazione del sistema sanitario. Perché se si parla con se si parla con chiunque, è chiaro che la cartina di tornasole per capire se il sistema sanitario funziona a me o meno sono le liste di attesa per le prestazioni mediche specialistiche e gli accessi ai pronto soccorso. Questo è chiaro. E se parliamo con un cittadino dice sì, però ancora oggi ci sono le file lunghe al pronto soccorso, le liste d'attesa, ancora sì, qualche volta mi hanno richiamato, c'è lo screening che in effetti noi abbiamo potenziato tantissimo perché stiamo lavorando sulla prevenzione, però ci rendiamo conto che ci manca questo pezzo, ma questo pezzo per poterlo fare era fondamentale che facessi capire tutto il percorso che ha dovuto fare la Regione Lazio, ma non soltanto organizzativo, economico, soprattutto del personale. È quello che dicevo io, si torna, noi sappiamo che tutti gli ospedali del Lazio, tutte le strutture territoriali del Lazio, e guardate, non parlo soltanto di infermieri, medici, ma di tutte le figure professionali che ruotano intorno al sistema sanitario, e sono tante. Noi ad oggi abbiamo ancora una carenza di quel personale e ovviamente senza quel personale non riusciamo a garantire una qualità e soprattutto una quantità di servizi, perché guarda Marco, sulla qualità io ti posso garantire che abbiamo trovato un sistema che tutto sommato, nonostante le mille difficoltà, ancora funziona, perché abbiamo grandissimi operatori che non soltanto ci mettono tanto cuore, tanta volontà, ma ci mettono soprattutto tantissima professionalità, e io questo lo voglio sottolineare. Ecco, è un merito nostro ma è un merito loro. Su questo spendiamo due parole agli operatori della sanità che garantiscono un servizio fondamentale nella nostra regione nonostante le difficoltà, e questo ovviamente è il riconoscimento che va fatto a chi in prima linea si trova a dover affrontare quotidianamente le difficoltà. Per questo ti chiedevo. Guarda, ad oggi purtroppo si parla troppo spesso della mala sanità, di quello che non funziona, delle persone che vanno in ospedale e muoiono. Succede anche questo, perché in ospedale molti, guariscono, però purtroppo si muore anche in ospedale, e poco spesso purtroppo poco spesso si parla di quello, delle cose buone che vengono fatte, delle vite salvate, dell'abnegazione dei nostri dipendenti, del nostro sistema sanitario, che grazie a loro, nonostante tutto, nonostante la crisi economica, nonostante il taglio del personale, nonostante questa regione non ha potuto assumere, non aveva delle linee guida, ancora, ve lo garantisco, possiamo offrire un buon sistema sanitario. È chiaro, è personale stanco, è personale che va motivato ancora di più, ci deve essere un flusso nuovo di persone per risolvere quelle problematiche che ti dicevo, le liste d'attesa e quindi le prenotazioni che si fanno per visite specialistiche e soprattutto agli accessi al pronto soccorso. Su questo noi ci stiamo lavorando. Ecco, su questo ti chiedo, concretamente avete adottato alcuni provvedimenti, state adottando, diciamo, una strategia per poter abbattere queste criticità? Allora, assolutamente. Che riguardano non l'aspetto economico ma l'aspetto concreto, organizzativo. Allora, è chiaro che la prima cosa è il personale e noi sul personale stiamo bandendo i nuovi concorsi. Quindi non soltanto dignità a uomini e donne che per 5, 10, 15, 17 anni sono stati precari e che quindi adesso verranno stabilizzati. Quello chiaramente non è personale in più perché già c'è, ma è una questione di dignità e di ringraziamento di persone che ci hanno aiutato come Regione Lazio in questi anni ad andare avanti. Ci saranno i nuovi concorsi e quindi arriverà nuovo personale. Quest'anno tra stabilizzazioni e nuovi concorsi parliamo di 1700 posti, altrettanto saranno nel 2018. I numeri cominciano a essere non sufficienti al 100%, ma importanti. Se immaginiamo nel 2013 ne sono entrati nel sistema sanitario 63 o 68, o nel 2017 ne entrano 700-800, chiaramente i numeri cominciano a essere interessanti. È chiaro che però il problema va affrontato anche, diciamo così, dalla radice. Allora, gli ospedali potranno funzionare e tornare a fare quello che è il loro mestiere, così come si suol dire, cioè elezione ed emergenza, solo se viene a far funzionare il territorio, cioè solo se il territorio drena tutte quelle situazioni che non debbono andare al pronto soccorso. Noi oggi abbiamo tagliato molti degli accessi impropri al pronto soccorso, siamo arrivati che stavano oltre il 67-69%, cioè i famosi codici bianchi e codici verdi, che lì non ci dovevano essere. Ma abbiamo una percentuale ancora altissima, ma questo ovviamente, oggettivamente, non è un problema dei cittadini, perché io la capisco, una mamma che a luna di notte, che a mezzanotte, che il sabato non sa dove andare e magari il bimbo ha un problema all'orecchio che può essere una banale otite con due gocce, però non sa che fare la porta al pronto soccorso. Come stiamo cercando di lavorare? Stiamo cercando di lavorare utilizzando le famose case della salute, che funzionano ancora non del tutto, ma lì dobbiamo avere una, diciamo, un aiuto dai medici di medicina generale, i famosi medici di famiglia, i medici di base, dai pediatri di libera scelta, cioè lì deve diventare un presidio per il territorio dove la gente si deve rivolgere. Ad esempio nella città di Roma abbiamo aperto nei weekend sabato e domenica gli studi medici di medicina generale e in meno di un anno mi sembra hanno fatto più di 70.000 accessi il sabato e la domenica, che è una goccia rispetto al mare, ma è una delle situazioni per cui dire il territorio deve funzionare, meno ospedalizzazione, l'ospedale serve soltanto per l'emergenza o perché ci sono delle situazioni che sono state programmate nel tempo. E quindi se il territorio funziona, in ospedale ci va chi ci deve andare, l'emergenza e quindi il pronto soccorso è per i casi che debbono stare lì e quindi diminuiranno anche le attese al pronto soccorso. È chiaro che questo è un progetto. Se noi nel 2013, appena entrati, avessimo detto ma noi nel 2017 assumeremo e stabilizzeremo 1500 persone, forse nessuno ci avrebbe creduto, però l'abbiamo fatto. No. Ci siamo riusciti perché abbiamo portato avanti un percorso e anche su questo è un percorso che stiamo portando avanti, così come il discorso delle liste d'attesa. Anche lì, per patologie croniche, abbiamo detto agli specialisti, le varie prenotazioni le dovete dare voi, non serve che la gente va al CUP o al RECUP e chiama per prenotare, prende 6 mesi, per chi ha il diabete e deve fare il rinnovo del piano terapeutico o per altre patologie, non deve fare la fila al CUP e poi andare dal medico e farsi fare, la fa lo specialista, così come noi stiamo cercando di richiamare. Quindi scusami, in questo tipo di situazione, quindi direttamente lo specialista potrà inserire il paziente che ha una necessità. Gli dà già l'appuntamento. Un appuntamento per poter ritornare. Da qui a 6 mesi. Tra 6 mesi torna direttamente da me e non serve che fa la fila al CUP o al RECUP ospedaliero regionale per prendere l'appuntamento. Stiamo cercando di accelerare, ad esempio, lo screening, che può sembrare una banalità, ma assolutamente non è soltanto un discorso economico, perché prevenire è sicuramente meglio che curare, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico, perché un paziente che viene preso all'inizio di una patologia costa meno, ma gli salviamo forse la vita. Sicuramente abbiamo, è un'ottica di prevenzione. Assolutamente sì. Abbiamo aumentato notevolmente lo screening, che non è soltanto la letterina, guardi signora o guardi caro amico, lei deve fare l'esame della prostata, perché stiamo facendo fare le telefonate, stiamo lavorando con i medici di medicina generale, dicendogli: voi che siete la nostra, diciamo così, sentinella, il nostro esercito sul territorio, siete voi che ci dovete dare una mano rispetto a questo discorso, cioè a una sensibilizzazione. Ecco, ti chiedo appunto, tu hai parlato prima della rete territoriale che deve essere, diciamo, aiutare il servizio sanitario regionale a evitare che ci siano accessi indiscriminati. Ecco, su questo avete trovato collaborazione da parte dei medici di medicina generale? C'è possibilità, oltre la Casa della Salute, che sicuramente è un momento aggregativo importante, di poter contare anche sulla realtà diffusa anche dei medici presenti sul territorio, proprio per fare in modo che ci sia una possibilità per il cittadino di rivolgersi al punto di prossimità più vicino, guarda, che non è soltanto il pronto soccorso ma anche proprio il medico di base. Allora guarda Marco, io penso che il cambiamento del nostro sistema sanitario è dovuto sicuramente a un problema di natura economica e organizzativa, e quindi è saltato il banco, come si suol dire, per queste ragioni. Ma è saltato il banco anche perché questo sistema non funzionava, perché non dava quella garanzia di sanità e di qualità delle erogazioni delle cure. Allora, se tutti dalla parte politica, la parte tecnica territoriale, sanitaria ospedaliera, da tutti ci rendiamo conto che forse dovremmo fare tutti un passo indietro per farne fare uno in avanti al sistema sanitario, ognuno riesce a fare meglio il proprio lavoro. Noi abbiamo affrontato il tema della medicina difensiva, che costa centinaia di milioni di euro, dicendo e parlando con i medici: dateci una mano, è inutile far fare la risonanza magnetica a tutto il mondo quando non servono. Queste non solo costano, poi se non servono perché bisogna far fare delle visite specialistiche e allungano le liste d'attesa, perché magari a chi serve realmente ce n'ha davanti 30, che quella cosa poteva essere evitata. La scommessa più grande non è quella di mettere a posto i conti, di creare le regole, è quella di cambiare una mentalità nel sistema sanitario del Lazio. Perché in altre regioni, la Casa della Salute, io sono stato a quella di Arezzo, l'ho visitata, perché lì il sistema è stato cambiato 6 volte, migliorandolo, dicendo forse così facciamo meglio, proviamo, e da noi ancora abbiamo difficoltà a farlo partire? Perché poi, ripeto, io posso scrivere il decreto, ma poi c'è chi c'è dentro che lo deve riempire di contenuto. Ad esempio, le Case della Salute, dove c'è la degenza infermieristica, funziona benissimo. I pazienti che magari subiscono un'operazione, che stanno in ospedale 2 giorni, c'è il medico che dice: guarda, vorrei controllarti un giorno in più, ti sposto e vai nella degenza. Non solo noi risparmiamo, perché un ricovero in ospedale costa tra gli 800 e 1200 euro, ma lì ha un'assistenza assolutamente al 100% professionale per le proprie esigenze, tranquillo, controllato, e magari ci può stare un giorno in più. Cioè, tutte queste cose che dall'altre parti sono normali, per noi sono sperimentazioni che abbiamo messo in campo. La cultura è sicuramente importante, non dobbiamo pensare che sia sempre l'erba del vicino più verde. Ti chiedo però di farci una panoramica rapida, visto che il tempo scorre, su quello che è il nostro territorio, quindi la nostra ASL di riferimento, la Roma G, quali saranno anche in questo caso prospettive di sviluppo o di miglioramento? Allora, è chiaro che questa ASL ha una sua struttura rispetto a quello che è l'ospedale di Colleferro, l'ospedale di Palestrina, l'ospedale di Tivoli, l'ospedale di Subiaco, l'ospedale di Monterotondo. Si è parlato tanto, troppo e molte volte a sproposito. Io non sono mai intervenuto rispetto a queste situazioni, però oggi mi sento di dire che rispetto a alla fotografia che c'è attualmente, e che è una fotografia voluta dalla Regione Lazio, perché nella rete ospedaliera l'ospedale di Tivoli c'è, esiste, rimane, l'ospedale di Palestrina c'è, esiste, rimane, l'ospedale di Colleferro c'è, esiste, rimane, È chiaro, qualcuno mi dice sì, ma lì ci mancano 3 infermieri, lì questo lo sappiamo. Purtroppo queste cose le sappiamo, che manca l'anestesista per fare magari più operazioni, che serve il cardiologo, lo sappiamo, ma mai è stato posto in discussione quella che è la struttura sanitaria di questa regione, che parte da Subiaco, da Monterotondo, che loro hanno una natura completamente differente, lo sapete benissimo. Tu poi te ne sei interessato in prima persona tante volte, sia da sindaco che da avvocato, quindi l'hai fatto in duplice veste, lo sai bene. Ma il nostro territorio funziona solo se noi abbiamo Tivoli da una parte e Colleferro e Palestrina da un'altra, che non debbono essere contrari ma debbono essere complementari. Questo vuol dire garantire il sistema sanitario di questa ASL. Entrare in un ospedale perché c'è scritto ospedale non vuol dire aver salva la vita. Ognuno deve fare il proprio, perché quel proprio salva la vita alle persone. Poi è chiaro che ci deve essere un'organizzazione dell'emergenza, cioè noi abbiamo comprato 86 ambulanze nuove che trasmettono il famoso ECG, l'elettrocardiogramma, già all'arrivo del paziente. Abbiamo potenziato le elisuperfici, quindi il trasporto dei pazienti in elicottero. L'emergenza è una cosa importante, ma non possiamo pensare che ci può essere un pronto soccorso ogni 30 chilometri, perché poi il pronto soccorso deve avere dietro una struttura e ricaricare. Cadiamo in quello che abbiamo ereditato. Soprattutto garantire la qualità del servizio sanitario, esatto, all'interno del nostro territorio, perché non è un territorio di serie B. Ma per garantire la qualità noi dobbiamo avere anche i numeri che ci permettono di garantire la qualità, perché ripeto, io capisco che molte volte, parlando con le persone, ma l'ospedale c'è, rimane, ma guardate, l'ospedale serve solo in casi estremi. Tante cose che si possono fare o che si sono fatte negli ospedali, si possono e si debbono fare nel territorio. Poi gli ospedali rimangono, certo che debbono rimanere, e questo quadrante funziona, lo ripeto, solo se rimane l'ospedale di Tivoli, Colleferro e Palestrina, e questo è quello che noi abbiamo scritto negli atti ufficiali. Quindi ci confermi la rete ospedaliera è questa del territorio, quindi altre cose si chiude, non si chiude nulla. Poi il direttore generale che vuole spostare il medico X perché dice quello che vuole, questo è un tema interno loro d'organizzazione, dove è chiaro che la regione non può entrare. Noi abbiamo scelto i direttori generali che debbono organizzare il lavoro, loro lo organizzano, noi vogliamo garantire che cosa? I tempi per l'operazione all'anca, questo, cioè è chiaro che poi loro ci daranno un report rispetto alla diminuzione dei parti cesarei, cioè ci sono dei valori che loro debbono rispettare, e noi valuteremo il loro operato sulla base di quei dati, non se quel medico è stato spostato e magari tutti i pazienti hanno fatto il polverone. A noi interessa la qualità e la quantità delle prestazioni che vengono erogate. La responsabilità organizzativa del servizio è loro, la responsabilità di quale, di dove vogliamo dare i servizi è nostra, e su questo territorio l'abbiamo scritto in maniera chiarissima. Nella rete ospedaliere c'è scritto chiaramente quali sono gli ospedali di riferimento di questo territorio. Grazie Rodolfo, quindi ci hai detto che sul nostro territorio rimarranno questi presidi ospedalieri che attraverso la loro diffusione sul territorio potranno essere complementari. Aggiungo anche e lavorare anche con il territorio, scusami, perché poi il collegamento, la persona che esce dall'ospedale deve essere presa in carico dal territorio, perché altrimenti quella, una volta che esce, dopo qualche giorno, se il territorio non fa quello che deve fare per somministrare cure, perché il CAD rientra in ospedale e quindi ricominciamo. Ecco perché ci deve essere la vera integrazione, la scommessa vera che stiamo facendo in questa regione è presa in carico del paziente, i famosi PDTA, i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, e soprattutto l'integrazione territorio ospedale, ma ancora di più, e mi farebbe piacere parlarne, dell'integrazione socio-sanitaria, perché noi in questa regione abbiamo sanitarizzato tutto, anche quello che era sociale, spendendo di più e gravando ancora di più sulla qualità della vita dei cittadini. Su questo ti interrompo, perché sicuramente faremo un focus su quest'altro aspetto che tu hai poc'anzi accennato, quindi l'aspetto sociale. Ti ringrazio per averci dato queste informazioni in grazie diretta qui su Radio Onda Libera e sulla diretta Facebook che è Radio Onda Libera oggi sta facendo. Ringrazio Stefano del suo supporto tecnico e gestionale dello spazio, e soprattutto ovviamente vi ricordo l'appuntamento di Radio Onda Libera di Agora in Onda per la prossima settimana, in cui parleremo di cyberbullismo e bullismo con il capitano dei Carabinieri di Palestrina, il capitano Maria Grazia Centrone. Naturalmente noi ti rinvitiamo a tornare, perché con molto piacere dovremo parlare di altre cose. Hai toccato un tasto che a me mi è molto caro, il CAD. Il CAD, mi spiace, ma in alcune zone funziona, in altre ha qualche laguna di troppo. Assolutamente. Si perde un pochettino. Lo sappiamo bene. L'ho vissuto sulla pelle direttamente, perciò ti posso garantire che ci sono alcuni CAD nella regione Lazio che non vanno come dovrebbero andare. No, anche perché se si fa uno sforzo per poter far sì che tutto funzioni, è normale che non è giusto che da una parte funziona meglio e da un'altra funziona peggio. Lo sforzo più grande è quello di unificare la qualità dei servizi. Infatti. Non vogliamo che ci siano cittadini che hanno un certo tipo di servizi e altri, però ne parleremo prossimamente quando mi inviterete. Su questo la qualità e l'accesso, la parità di accesso e la qualità dei servizi è fondamentale. È proprio su questo che vogliamo che anche sul nostro territorio possa esserci la dignità e la qualità che ci auspichiamo, perché non siamo mai cittadini di serie B. Grazie ancora a tutti i radioascoltatori. Grazie a voi. Grazie. Va bene, d'accordo. Allora io vi rimando all'appuntamento con Agorà in onda venerdì prossimo e vi do appuntamento in diretta con me qui su Onda Libera alle 7 di lunedì mattina. Bye bye.